24 mattino. Eccoci qua alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati con 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, riparte una nuova settimana. Esatto. L'ultima. L'abbiamo detto insieme, vedi che alla fine della fiera, alla fine della, del ciclo di trasmissione siamo diventati. Che intesa. Esatto. Ma è l'ultima anche per te? No. Penultima per me. Ah, l'ultima per me, allora. Già, va benissimo. Infatti, sì, lo so, ti vedo che hai già la faccia da brindisi. Sì, per esatto, c'ho le valigie qui. allora, qua. Oggi, come detto, parliamo della City Card, insomma, sì, è momento di turismo, è momento di servizi, si spera, sempre più accessibili per tutti. Esatto, tra l'altro, visto che per tutto l'anno non abbiamo fatto altro che parlare degli effetti della crisi economica, vogliamo concludere questo mese di luglio un po' in bellezza, cercando di alleggerire anche le nostre trasmissioni per i nostri ascoltatori. Allora, abbiamo tratto spunto da quanto scrive Il Sole 24 Ore questa mattina. A pagina 19, il pezzo è della collega Monica Conforti. Muoversi nelle grandi città pagando tutto con un'unica card. Il traguardo è molto ambizioso, ma in alcune metropoli europee sono stati fatti notevoli passi avanti. La via è quella tracciata dalle City Card, le tessere offerte dagli uffici turistici che, una volta acquistate a prezzi variabili secondo le condizioni, permettono al viaggiatore di utilizzare gratis i mezzi pubblici cittadini e di godere anche di sconti, a volte anche di ingressi a costo zero per le principali attrazioni cittadine. Allora, come diceva la collega, sono, come dire, delle card molto diffuse in tante città europee, ma in realtà anche nel nostro paese molte città danno queste opportunità. Noi ne abbiamo scelte due, l'esperienza di Roma, ma non solo, e quella di Venezia. Buongiorno Mario Parroco, presidente di Perdue City Card di Roma. Parroco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, grazie dell'invito. E buongiorno anche a Michele Vianello, vice sindaco di Venezia, coordinatore del tavolo interassessoriale, devo dire tutto, per l'economia turistica appunto del Comune di Venezia. Buongiorno anche a lei, dottor Vianello. Buongiorno. Allora, da che cosa cominciamo? Intanto direi di farci raccontare un po' da entrambi i nostri interlocutori come funzionano queste card. Noi poi magari vi daremo anche qualche indicazione su come funzionano le principali carte che è possibile andare a richiedere negli enti turistici per visitare per esempio Parigi, per visitare Lisbona, per visitare Berlino, quindi le principali capitali europee. Però siccome quest'anno ci hanno detto, io non volevo parlare della crisi ma in qualche modo ci devo andare, che forse molte famiglie italiane rinunceranno a vacanze lunghe a favore appunto di vacanze più brevi in termini di tempo ma anche in termini di destinazioni, forse visiteranno un po' di più le città italiane, allora facciamo conoscere loro queste opportunità. Mario Parroco, la Perdue City Card di Roma, come funziona? La Perdue City Card è una tessera da esibire per ottenere degli sconti, è focalizzata sul tempo libero, e si compra online sul sito Perdue City Card e si riceve a casa prima di partire, oppure in albergo all'arrivo in città. Ovviamente tanti altri modi, si può prendere presso uno qualunque dei punti vendita che si trovano in città. È una carta che, come dice il nome stesso, vale per due persone, infatti per due City Card, e ha un utilizzo di, proprio per consentire la massima flessibilità, un utilizzo di 30 giorni dall'emissione, e poi si utilizza da tutte le volte che si vuole presso questo circuito molto ampio. Gli sconti della Perdue City Card sono veramente tantissimi, abbiamo attualmente oltre 500 convenzioni, tutte focalizzate sul tempo libero, ma diciamo le raggruppiamo in quattro categorie che sono i musei e le attrazioni turistiche, quindi i parchi, i giochi piuttosto che appunto i musei in generale, poi gli spettacoli con i cinema, i teatri, anche gli spettacoli in particolare nel momento estivo dell'estate pienissimo, poi ci sono i ristoranti dove la formula è molto impattante perché c'è il 50% per due persone, e poi ci sono negozi, shopping, servizi vari. Beh, l'aspetto del ristorante, dottor Parroco, lei me la mette su un piatto d'argento, è molto interessante perché data l'avventura che è capitata qualche settimana fa ai turisti giapponesi in questo noto ristorante di cui non voglio tornare a dire il nome perché sennò penseranno che ci stiamo accanendo contro di loro, ecco, un aspetto interessante perché molto spesso il vitto in certe città a costi abbastanza elevati. Andiamo invece a Venezia. Vice sindaco Vianello, voi tra l'altro oltre alla card, alla Venice Card che distribuite, che tra l'altro, adesso le do subito una bacchettata, ma naturalmente la lascia anche difendere. È quella un po' più costosa di tutte le altre che abbiamo visto vengono praticate sulle città italiane. 73 euro per poter usufruire in 3 giorni di quali servizi, ma qua abbiamo anche tutta una serie di servizi correlati alla card, una rete informatica molto ampia. Vice sindaco. Beh, noi in realtà stiamo superando la Venice Card. La città si è dotata di rete a banda larga. Il turista che viene a Venezia ha a disposizione la rete. Si collega al sito www.veniceconnected.it e .com. Lì trova un avatar, cioè una guida virtuale che lo accompagna lungo gli scaffali del supermercato, sceglie i prodotti che vuol comprare, servizi pubblici, garage, musei e così via, compone il suo carrello e alla fine paga con una carta di credito. Alla fine da questo viene generato un PNR, un unico numero di codice, si presenta quando arriva a Venezia, salta ogni coda e paga in modo differenziato. Per questo la Venice Card è ormai uno strumento superato. Quindi annuncio Venice Card superata. Benissimo, ci dà anche questa notizia, ci fa molto piacere, la ringrazio. Quindi praticamente ogni turista attraverso questa integrazione dei servizi che è possibile fare, si può personalizzare. Si può personalizzare ormai praticamente il pacchetto turistico su Venezia? Un turista può dire si costruisce da solo il suo pacchetto, cioè seguiamo ormai il modo che in rete, in internet, viene usato comunemente per comprare l'albergo piuttosto che l'aereo. Noi l'abbiamo esteso a tutti i servizi pubblici. Ecco, quali sono le curiosità che ha notato da quando avete attivato questo tipo di servizio da febbraio? Ci diceva qual è la tipologia del pacchetto turistico che il turista si costruisce mediamente? Magari ci sono delle differenze tra il turista che viene dall'estero e quello italiano? La grande maggioranza acquistano il biglietto 72 ore, comprano l'accesso a tutti i musei, non più ogni singolo museo un biglietto, un unico biglietto per tutti i musei, comprano Ali Laguna, consente una cosa un po' locale, cioè il trasferimento via acqua tra l'aeroporto e le zone principali della città, e da qualche giorno si compra anche l'accesso alla rete wifi messa a disposizione dall'amministrazione comunale. La cosa sta avendo, anche un certo successo. La cosa importante è che noi incentiviamo e disincentiviamo. Voi venite a Venezia nei periodi in cui la città è meno frequentata, pagate di meno che venire durante un ponte nel mese di giugno. Certo, in piena stagione, questo ci sembra. Quando la città è appunto più affollata, pagate di più se venite la domenica di Carnevale, pagate meno se venite 2 giorni dopo Carnevale, cioè incentiviamo, disincentiviamo. Devo dire che il sistema sta cominciando seriamente a funzionare. Volevo tornare invece, sì, vice sindaco, volevo tornare a Mario Parroco per due City Card, perché con noi abbiamo spiegato nella prima parte solamente il funzionamento della card su Roma, costo 20 euro, validità un mese, uno strumento pensato per le coppie, però non siete solo a Roma, vero Parroco? Perché in realtà state cercando di allargare il servizio anche ad altre città italiane. Per due City Card in realtà è già in funzione a Roma, a Latina, a Siracusa, adesso pensiamo ad altre città italiane, ovviamente quelle anche con che sono destinazioni turistiche principali, ma proprio per far capire l'ampiezza delle opportunità delle per due City Card è utile dire che una recente derivazione di una carta proprio lanciata all'inizio dell'anno, della carta per due, che è una carta sconti destinata non ai turisti ma proprio per l'uso quotidiano, sempre focalizzata sul tempo libero, e questo proprio per spiegare il senso del radicamento sul territorio, proprio il grande elenco di opportunità consentono al turista di godere quei posti che normalmente sono frequentati dai cittadini romani e allo stesso tempo ovviamente invece frequentare i musei, frequentare i parchi, faccio il parco parco divertimento o anche gli spettacoli teatrali che ci sono, teatrali non solo, i concerti che ci sono in città. L'esempio è che proprio utilizzando la carta in una giornata tipo di un turista, proprio facendo l'elenco delle cose che lui fa normalmente, per esempio la mattina va al museo, non so, le scuderie, il Quirinale, e paga un biglietto invece di due, poi fa un pranzo veloce e in questo caso magari spende con per un pranzo completo 16 euro invece di 35, sempre per due persone. Infatti. Al pomeriggio va dopo lo shopping, va presso lo zoo e lì anche lì un biglietto al posto di due, e la cena invece di pagare 60-70 euro sempre per due persone ne paga 35. E infatti con lo stesso prezzo. No, la devo interrompere, parroco, abbiamo capito perfettamente lo spirito anche della vostra card, così come abbiamo capito anche come funziona la rete dei servizi, appunto, che è invece stata la strada percorsa dal comune di Venezia. Il tema è informiamoci prima di partire, perché abbiamo questa opportunità, molto spesso non ne veniamo a conoscenza, però basta farsi magari un giro nei siti delle principali città che vogliamo visitare per cercare di e riusciamo ad intercettare anche queste opportunità che ci permettono di visitare i musei e le località appunto più rinomate delle città che scegliamo per le nostre vacanze a prezzi assolutamente scontati, insomma convenzionati. Peraltro c'è anche un'altra iniziativa interessante che il Sole 24 Ore sempre segnala questa mattina, per esempio c'è la Family Card Mondo Parchi, al costo di 19 euro si accede fino a dicembre a ben 1500 servizi fra parchi a tema. Insomma, sono sempre più frequenti queste esperienze e se vogliamo quest'anno viaggiare all'insegna del risparmio, forse è bene che ci documentiamo prima di partire proprio su queste opportunità. Io ringrazio Mario Parroco e Michele Vianello per essere stati con noi e devo ridare la linea ad Alessandro Milan. Eccoci qua, Deborah, sì, alle 12. Alle 12, sempre a proposito di card, oggi parlo della social card, famosa perché per oltre 6.000 famiglie si è fermata la ricarica e non si capisce per quale motivo, sempre con la collaborazione del Sole 24 Ore. Sono le 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, le notizie in primo piano sono queste: ancora misure contro la nuova influenza. Le compagnie aeree British Airways e Virgin Atlantic potranno rifiutarsi di fare imbarcare chi mostra sintomi della malattia. Ieri intanto sono tornati a Milano da Londra i ragazzi di due scuole, tra i quali si sarebbero verificati numerosi casi di nuova influenza. Oggi saranno sottoposti a controlli. Poca gente, appena 300 persone hanno partecipato alle manifestazioni nell'anniversario della strage di Via D'Amelio in cui morì Paolo Borsellino e i familiari accusano lo Stato è assente. Ristoratori che denunciano quanto i pensionati, massimo 14.500 euro lordi l'anno, commercianti che dichiarano quanto lavoratori dipendenti, meno di 20.000 euro, microaziende che dichiarano in media 17.000 euro. Questi alcuni dei dati che emergono dalle prime analisi dei modelli unico fatti dal Ministero del Tesoro e scoppia subito la polemica sui presunti evasori. Infine lo sport, ennesimo trionfo di Valentino Rossi, con la sua Yamaha ha vinto il Gran Premio di Germania, secondo il compagno di squadra Lorenzo, e per Valentino il mondiale si avvicina. Mentre ai mondiali di nuoto a Roma, Tania Cagnotto manca il podio di un soffio del trampolino da un metro, è quarta per colpa di un brutto primo tuffo. Tutto questo alle 8.33 minuti. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Parliamo dunque di ronde, le ronde che non sono così definite nel decreto sicurezza che entra in vigore, insomma, e si sa qualcosa di più per questi volontari, si sa qualcosa di più per il regolamento del Ministero. Dovrebbero essere al massimo gruppi di 5, tutti incensurati, non si può far parte di partiti, totalmente disarmati, non si potrà girare neanche coi cani, neanche con lo spray al peperoncino, quello che peraltro il DDL sicurezza prevede, legalizza. Insomma, formule molto restrittive, così pare. Lo voglio chiedere innanzitutto a Claudio Giardullo, che saluto, è il segretario generale del SILP, uno dei sindacati di polizia, il sindacato italiano lavoratori polizia. Giardullo, buongiorno. Buongiorno a voi. Sono restrittive, o meglio, così restrittive come appaiono le cosiddette ronde, vi piacciono un po' di più? Voi siete stati da sempre contrari. No, le ronde continuano a non piacerci perché sono una risposta sbagliata, però il regolamento è effettivamente rigoroso e tenta di limitare qualche danno che il testo della legge, che ha maglie molto larghe, può determinare. Cos'è che non vi piace del fatto, dell'idea delle ronde? È una questione di vedere cittadini che girano, che dovrebbero avere solo il compito di segnalare alla polizia qualcosa che non va, d'altronde non potete stare dappertutto nelle strade. No, è una questione di merito. Noi riteniamo che sia una risposta sbagliata, finiranno per intasare i centralini delle forze di polizia, che siano quelle locali o statali, non importa. Non saranno un ausilio, saranno un problema in più. È già successo che le forze di polizia siano dovute intervenire per dirimere questioni tra ronde di fazioni diverse. Mancherà la professionalità, ma soprattutto mancherà l'imparzialità, che nella sicurezza è una questione molto molto importante. Il regolamento vieterà qualunque rapporto con visibile, almeno con i partiti politici, con movimenti organizzati, però ovviamente tutto questo non potrà essere impedito fino in fondo qualche associazione di volontari farà riferimento ai partiti, e questo toglie imparzialità, che è una questione decisiva. Sulla sicurezza, io vorrei chiedere al mio secondo ospite, che è Max Bastoni, che saluto. Bastoni, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei è militante della Lega da tanto tempo, tra l'altro so che fa anche una trasmissione su Radio Padania, insomma, siamo colleghi da un certo punto di vista. Quello grazie che ci ha detto, ma ci mancherebbe, quello che ci ha detto Giardullo adesso, insomma, effettivamente è vero, sono vietati i movimenti politici, ogni riferimento a movimenti politici, anche sono vietate divise, stemmi, quello che ricorda movimenti politici, per carità, vietate anche tute che ricordano abbigliamenti di tipo militare. Però leggevo sul Riformista di recente: al via i corsi leghisti per le ronde padane, corsi che lei starebbe in qualche modo supervisionando, controllando anche a Milano. E allora come la mettiamo questo legame che non ci deve essere coi partiti e la vostra iniziativa? Ma innanzitutto una cosa, ecco, noi non è che abbiamo questa voglia insostenibile di essere noi quelli a fare le ronde. Noi siamo quelli che probabilmente hanno visto per primi qual era il problema della sicurezza e hanno iniziato a organizzarsi, o meglio ad organizzare le ronde, che in realtà nascono come momento spontaneo di cittadini. Quindi non è che è la Lega che inventa le ronde. Le ronde, quelle per il controllo del territorio, sono sempre nate. E quindi noi riteniamo che c'è stata questa vittoria politica nel volerle organizzare anche dal punto di vista istituzionale, quindi dalle una legge che le regolamenti. Poi che non siano le ronde dei volontari verdi leghisti piuttosto che le ronde di altri partiti politici, a noi sta benissimo. L'importante è che comunque si sia capito qual è il problema. Fatta la legge, noi abbiamo ritenuto di dare un altro grosso segnale, quello che chi fa le ronde debba essere un minimo addestrato. Addestrato, ecco, fra virgolette. E ci mancherebbe, però addestrato, voglio dire, da voi, o comunque addestrato, cioè chi viene da lei avrà un'ideologia, immagino, leghista, no? Assolutamente, anzi, i corsi saranno rivolti soprattutto alle associazioni che hanno deciso di iscriversi a questi albi, del quale poi i sindaci potranno usufruire, no, per il controllo del territorio, e quindi potrà iscriversi chiunque. Assolutamente, l'associazione alla quale è stato dato l'incarico di gestire i docenti è un'associazione totalmente slegata dalla Lega, è un'associazione di guardie giurate e di ex agenti di polizia, quindi non c'è assolutamente nessun legame ideologico con il nostro movimento. E che insegna? Leggevo sul Riformista corsi di Kung Fu, corsi di preparazione psicologica e poi arti marziali. No. Corsi di Kung Fu, arti marziali. Corsi di autodifesa personale, corsi di psicologia, perché riteniamo che debba essere chi fa le ronde debba saper reagire a giusto modo, sì, in fronte a certe autodifendersi. Allora, me lo permette come battuta, il passato è un po' scordato. Io vogliamo ricordare, lei tra l'altro si candidò in passato con alcuni manifesti che giocavano ovviamente sul suo cognome, ricordiamo, si chiama Bastoni, certo. Però alcuni manifesti, difendi i tuoi diritti con bastoni e con le mazze da baseball esposte, oppure bastoni contro l'immigrazione. Lei si chiama Bastoni, certo, non si può fare altrimenti. Però... Beh, io mi chiamo Bastoni, l'ha detto lei. Ripeto, noi, allora, siamo, io come altri esponenti della Lega abbiamo... siamo stati i primi a capire quale fosse il pericolo dell'immigrazione. Quale pericolo? Pericolo in alcuni casi sì, sicuramente quali o perlomeno di un certo tipo di immigrazione non controllata. Quali problemi potesse portare nelle nostre città e nei nostri quartieri, tant'è che chi vive a Milano come vivo io può tranquillamente testimoniare che alcune zone come quelle di via Padova, piuttosto che via Tribugnano dove c'è un campo rom, piuttosto che alcune zone di Milano di presenza di immigrati, ecco, lì sono le zone dove poi... Vabbè, ma sono archiviati quegli slogan? Sì, beh, sono archiviati perché non mi sono più candidato, quindi sicuramente... Giardullo, la preoccupa questa premessa, questa iniziativa? Bastoni ci dice: noi non siamo assolutamente legati, chi viene da noi non ne deve essere assolutamente legato alla Lega, insomma, ci attiviamo, ci mettiamo in moto, però facciamo corsi, prepariamo, tutto secondo regola, la tranquillizza, al di là del Bastoni contro l'immigrazione, insomma, che fece scalpore anche all'epoca dei manifesti. No, al di là degli slogan, guardi, il problema è proprio quello, anche chi insegna qualche materia che sia di legittima difesa o di diritto su questo versante ovviamente lo farà inevitabilmente in modo orientato da un punto di vista culturale e ideale, che è esattamente il problema per chi ha un compito come questo, che non sarà ovviamente di intervento o di sostituzione delle forze di polizia, è solo di informazione e di segnalazione alle forze dell'ordine, ma già la segnalazione orientata su alcuni temi comporterà dei problemi. Le dicevo prima, avremo i centralini delle sale operative intasate, io immagino, in alcune aree del paese proprio sul versante immigrazione. Tutto questo è un problema. Guardi, c'è una voglia di sostituzione delle forze di polizia in Italia che è preoccupante, al di là di chi è molto orientato sull'immigrazione, poi sappiamo le ronde nere, neopatrioti, neogiustizialisti, insomma è una materia delicata. Sì, ma ci saranno sicuramente anche dei mitomani, dei pazzi che si metteranno, qualcuno è già stato beccato, insomma, come si suol dire. Però Giardullo, le vorrei chiedere, lei di recente ha anche detto: attenzione, perché molti enti locali che faranno? Preferiranno dare i soldi alle ronde tagliando soldi alle forze dell'ordine, ma non sono, almeno questa è mia ignoranza, non è proprio dagli enti locali che forse dovete fare recriminazioni se non al Ministero centrale eventualmente per soldi, perché temete questa, anche se mi passa il termine, competizione economica, soldi a loro e non a noi? No, guardi, più che competizione è questione di strategie, bisognerebbe dire con chiarezza al Paese che fra 5 anni avremo 25.000 operatori delle forze dell'ordine in meno, è un numero enorme per un lavoro che si svolge prevalentemente sul campo. La cosa inaccettabile è che aumenta la domanda di sicurezza, ma si riducono gli operatori di polizia e si riducono le risorse per le forze dell'ordine. Dall'altra parte ci sono i comuni che daranno i soldi, inevitabilmente, in convenzione ovviamente, alle associazioni dei cosiddetti volontari, cioè alle ronde. Una strategia che non si comprende. In un paese normale, se aumenta l'insicurezza dei cittadini, si fa carico, si conta soprattutto sui professionisti della sicurezza. Con tutto il rispetto, i dilettanti non daranno un grande aiuto, anzi daranno qualche problema in più. Questo è il punto sul quale vorrei chiudere Bastoni. Il dilettantismo, non c'è un rischio di dilettantismo allo sbaraglio, cioè non mi può dire che, insomma, con un corso di qualche istruzione si forma come un agente di polizia, insomma, una persona che poi dovrà fronteggiare di notte magari i balordi, un ubriaco, gente che vuole fare un crimine, ecco. Sì, però si è anche dimenticati di dire che saranno favorite le associazioni formate da ex agenti di polizia e ex agenti di forze dell'ordine, quindi dilettanti sì, ma fino a un certo punto, ecco. E poi quando si parla di ronde orientate, ma io penso che la sicurezza non possa essere orientata, corsi di autodifesa orientati, come si fa a orientare un corso di autodifesa? Io penso che sia una cosa, un mezzo che si può dare in più in in questo senso, nell'aiuto della difesa verso, o perlomeno nella tutela della sicurezza dei cittadini, c'è un'enorme domanda, come diceva prima anche... Sì, ma va risolta così, c'è un'enorme domanda, forse alimentata anche da paure e fobie, ma va risolta così, con più ronde, con gente che gira con le pettorine, o magari con più agenti, più soldi agli agenti di polizia, più volanti, più mezzi, più strutture? Sicuramente, no? Gli uni e gli altri, però gli se poi altri, facciamo più volanti e più agenti, dicono che vogliamo militarizzare lo Stato, e allora ci si decida. Da qualche parte la sicurezza va tutelata, o militarizziamo lo Stato o cerchiamo di responsabilizzare i cittadini. Io penso che sia un atto di responsabilizzazione dei cittadini che stanno facendo il bene della comunità, ricordiamoci, non è che si vuole armare di manganelli i cittadini per andare a pestare magari gli immigrati o gli extracomunitari che sono presenti sul nostro territorio, perché questo è un messaggio sbagliato che si vuole dare, si vuole semplicemente responsabilizzare e diciamo regolamentizzare tutto questo fenomeno delle ronde che comunque c'è, che comunque sul nostro territorio c'è, è inutile negarlo, le fa la Lega, ma non le fa solo la Lega, le fanno altre centinaia e centinaia di associazioni. E comunque, mi sembra più una dichiarazione di fallimento dello Stato, per essere sincero. Lei dice Stato, Ciardullo. Quando, sì, quando lo Stato dismette un'attività, 25.000 operatori è un bruttissimo segnale, dismette o comincia a smantellare la sua prima attività, quella per cui è nato lo Stato, e dice ai cittadini difendetevi in qualche modo da soli, è una brutta dichiarazione di fallimento. Insomma, lei, Ciardullo, che sembrava un po' più ottimista, visto il regolamento un po' più restrittivo, mi sembra che vabbè, rimane decisamente contrario, no? come espressione totale. Io intanto vi ringrazio. Claudio Ciardullo, voglio ricordare, segretario generale del SILP, sindacato di polizia, e così come Max Bastoni, che è un militante della Lega da tanto tempo, e vi ringrazio per essere stati con noi. Allora, alle 8:48 minuti è stata definita in un titolo di un giornale su Repubblica la scorsa settimana la carica dei 307, forse sono anche di più di 307, ex parlamentari, sono raggruppati in un'associazione, l'associazione degli ex parlamentari appunto, che ne raggruppa 1550, mi risulta, ma chiedo tutto al suo presidente Franco Coccia. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Parlamentare di lungo corso, credo ha fatto 4 legislature, mi corregga se sbaglio. Sono stato al Consiglio Superiore della Magistratura. Sì. Avvocato. Insomma, ex parlamentare soprattutto, ecco, in questa veste, e presidente dell'associazione ex parlamentare. Allora, mi permetta, sì. Attesa la serietà che contraddistingue la vostra trasmissione, di dire che questa associazione è una affiliazione parlamentare. È nata 40 anni fa, gode del prestigio e del riconoscimento di grandi presidenti della Repubblica, da Ciampi a Scalfaro a Napolitano, che Napolitano è stato peraltro socio di questa associazione, certo, fino ai giorni in cui è stato eletto presidente e socio attivo. Dunque abbiamo detto 1550 iscritti, sì. Ma questo dato va corredato anche dalla circostanza che è un'associazione trasversale, raggruppa tutti gli uomini e le donne di orientamento. Ci mancherebbe. Ecco. Presidente, allora è uscita... Tra di essi, mi preme dire, perché è importante per far conoscere, ci sono alcune delle personalità politiche più importanti del nostro paese. Abbiamo ben 3 presidenti della Corte Costituzionale, Vassalli, Giuliano, Ferri Mauro, Elia. No, ma presidente Coccia, ma nessuno qua mette in dubbio la serietà della. È importante capire perché siamo nati e qual è il nostro. È chiaro, ma no, ma lei fa bene, sa, però il tempo corre, io le devo fare qualche domanda su quello che è uscito, e cioè una lettera che voi avete inviato anche al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, che vi ha risposto molto gentile. Però è stata anche spiegata un po' su Repubblica, come dire, si profilano anche dei tagli economici ai cosiddetti, qualcuno dice benefit, non so, il telepass gratis, i viaggi gratis agli ex parlamentari a partire dal 2010, ed ecco che gli ex parlamentari sono un po' insorti a dire ma no, è una discriminazione. Senta, la voce degli ex parlamentari in questo momento la rappresento io. Sì. E le dirò, l'articolo pubblicato su Repubblica è un articolo malevolo e che non pone al centro la grande iniziativa che noi abbiamo assunto. da oltre 5 anni, e dopo peraltro anche un voto parlamentare, noi abbiamo chiesto, proprio per la riduzione dei costi della politica, di affidare agli ex parlamentari l'espletamento di consulenze, incarichi, missioni, che sono un aggravio formidabile per l'erario dello Stato. Questo è vero, a livello della Camera, del Senato, dei comuni, delle province, delle regioni, delle presidenze varie di enti di Stato e parastato. E voi vi siete offerti consulenza d'oro. Noi abbiamo detto abbiamo una ricchezza di saperi e di esperienze, perché abbiamo uomini che hanno fatto i ministri, i sottosegretari, i presidenti di commissione, che hanno avuto incarichi rilevantissimi nella vita politica del Paese in momenti delicatissimi. Ebbene, questa ricchezza di saperi e di esperienza noi la vogliamo porre al servizio della Repubblica e dello Stato a costo zero. Gratuitamente. Realizzando quindi economie enormi, sol che si pensi che l'Eurispes in una sua pubblicazione di quest'anno ha stimato in 3,4 miliardi il costo delle consulenze interne dello Stato. Questa è una parte meritoria, cioè voi dite: noi abbiamo grandi competenze, mettiamo a disposizione a costo zero gratuitamente le nostre consulenze per lo Stato. Perché però dice malevolo? Voi avete fatto anche una richiesta a dire... Venga a questo. Intanto, quando parliamo di benefit, c'è un errore giuridico che si scrive, mi dispiace per questo giornalista. Noi non andiamo mai a parlare di diritti acquisiti. I benefit sono liberalità, che sono state a suo tempo concesse dal Parlamento. Ora, rispetto ad esse, noi non siamo a fare la guerra. Noi siamo pronti ad accogliere qualsiasi misura che il Parlamento, previa una concertazione con noi, previa una consultazione con l'organo rappresentativo degli ex parlamentari, vorrà adottare. Quindi non siamo chiusi assolutamente. Però vi coinvolgessero, lei dice, ci chiamassero a parlarne. Certo, perché la lettera inizia così, duramente, con viva amarezza e delusione apprendiamo della decisione del Consiglio di Presidenza del Senato. Perché è avvenuta senza una consultazione. Certo, che ha deliberato in ordine alla concessione di viaggi per gli ex senatori, la soppressione degli stessi in favore degli ex senatori, previo contatto con la Camera. È che noi non accettiamo le discriminazioni, bisogna ridurre, si riduca, ma si riduca a tutti, non è che Tizio continuerà ad avere questi benefit e l'altro no. Ecco, questa è la questione vera che noi poniamo. Sì. Dopodiché, come noi sappiamo, ad autunno ci saranno incontri tra i questori della Camera e del Senato, perché come lei sa il Senato ha deciso, lasciando aperto la porta ai contatti con la Camera, e la Camera non è stata di questo parere, quindi è una posizione aperta questa. Quello che noi però ribadiamo è che noi non siamo a fare la guerra per difendere i benefit, ha capito? Noi si vuole ridurre per compatibilità economiche, li si riducano, ma con una misura che sia uguale, cioè a tutti. Per dire, però le chiedo in conclusione, onestamente, presidente Coccia, non so, il telepass gratis per gli ex parlamentari, secondo lei non è una misura anche di questi tempi economici che andrebbe tolta, al di là del io voglio sapere il mio parere. Sì, certo. Se si ritiene che questo telepass ha un'incidenza relativa, bene, lo si tolga, però vogliamo discutere. Sì. Quindi non c'è da parte nostra una posizione. La cosa che francamente trovo disdicevole nell'operato del giornalista è come se noi avessimo voluto barattare o contrapporre le consulenze, l'offerta che è vecchia di 5-6 anni fa e che nella 14ª e 15ª legislatura non venne dato seguito, e che oggi per la prima volta viceversa ha trovato in una persona intelligente come il sottosegretario Gianni Letta un'apertura straordinaria. Comunque voi dite, lei dice non siamo alla guerra dei telepass, questo sì. Io la ringrazio, presidente, mi devo fermare, ci tenga aggiornato di come andrà questa discussione, se vi convocheranno a parlare insomma con le massime istituzioni per capire come se ne uscirà. Grazie a Franco Coccia, presidente dell'Associazione Ex Parlamentari, per essere stato con noi. Laura Marchesi oggi in redazione, così come Carmelo Lauricella in regia, mentre Alessandro Marco Tulli, Beato Lui, se n'è andato in ferie. Bene, ci fermiamo, do la linea a Oscar Giannino e ci troviamo domattina.